fossi yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho letto un giorno fa che Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, ha detto che non ci saranno altri sbarchi sulla Luna, non ci saranno altre notti con dirette televisive, non ci saranno passeggiate sugli oceani di sassi, non ci saranno astronauti, non ci saranno bandiere a stelle a strisce. La mia risposta è: chi se ne frega. Noi sulla Luna già ci siamo stati nel 58. Aiuto! Hanno sparato l'atomica! La bomba idrogeno! Cosa c'è? Cosa è successo? Ragguagliatemi! Notiziatemi! Credo che sia stato un razzo, cavaliere! Ebbene, è giunto il momento che io renda di dominio pubblico la mia opinione al riguardo! Io dei satelliti, dello spazio, della Luna, me ne infischio! Anzi, me ne strainfischio! Capito? Beh, adesso basta, papà! Abbiamo capito! È tardi! Lasciami dormire! E a quest'ora nottambula voglio dormire! Totò sulla Luna è un film diretto da Steno, che è il nome d'arte di Stefano Vanzina, nel 58. Era una fantastica parodia dei film di fantascienza sulla conquista dello spazio che andavano molto in voga in quegli anni. Esiste un momento felice nel, diciamo, secondo dopoguerra, in cui in tutto il mondo cominciò a fervere questa ansia di rappresentare attraverso forme non sempre felici dal punto di vista dell'espressione estetica. Erano tempi in cui ancora le tridimensionalità azzurrognole di Avatar erano ben lontane. Però c'era la suggestione che armava la fantasia forte del desiderio che il vero obiettivo dell'umanità sarebbe stato quello di conquistare la Luna. Oggi della Luna non gliene importa più nulla, anzi oggi ci rendiamo conto di quanto sia stata folle e idiota questa ricerca di contrapporsi tra i due blocchi che si dividevano il potere sul mondo nella conquista della Luna. Per fare cosa? Cosa ci si fa della Luna? Di questa palla di pulviscolo e di crateri che serve soltanto a sognare, serve soltanto a immaginare, serve soltanto a essere destino e meta delle fantasie più inenarrabili dell'umanità. Ma non c'è nulla che valga la pena di essere conquistato. Beh, allora il fattorino Achille, che era Ugo Tognazzi, lavorava a Perzo Soubrette, che era una piccola casa editrice del cavalier Pasquale Belafronte Totò. Aveva scritto un romanzo di fantascienza che sperava di farsi pubblicare, e nel frattempo c'è la corsa alla Luna, e quindi in qualche maniera Totò viene coinvolto nella corsa alla Luna. Erano filmetti che nel nostro paese si facevano con pochi soldi. Era come il fotoromanzo era la rappresentazione velletaria di Hollywood, il fantafilm sulle imprese spaziali fatto in Italia con pochi soldi era il tentativo di imitare, ma con grande fantasia, con grande artigianale genialità, quello che si faceva in America. Questa mattina, per parlare della conquista dello spazio e della fantasia del futuro negli anni 50, ho naturalmente il nostro grande esperto in cinema residuale, Giuseppe Sansonna. Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Grazie all'archivio segreto del professor Alessandro Chiappini, questa mattina abbiamo messo le mani su delle reliquie culturali che il nostro paese, ahimè, ha voluto soffocare, quasi dimenticare, quasi ci fosse una sorta di incomprensibile senso di onta per aver prodotto queste cose. Partendo da Totò, che ha una sua dignità per l'illustre partecipazione di attori noti. Dove andiamo? La cosa curiosa è che la parodia di Totò arriva puntualissima dopo che c'era stato da pochissimo il primo film di fantascienza italiano, che era La morte viene dallo spazio di Paolo Esch del 1958, quindi la parodia è immediata. Questo primo film di fantascienza italiano si avvaleva già della fotografia, dei grandi trucchi del genio Mario Bava, che con pochi soldi era capace di creare il cosmo. Lo suo scenografo disse: dottore, il cosmo è pronto. Questa è una frase che è rimbalzata. Sì, erano dei blocchi di carta pesta. Poi avremo un diretto protagonista di quel filone fortunato, ci dirà come costruivano il cosmo. Ma costruire il cosmo basta mettere un po' di ghiaccio secco con l'acqua che faceva il fumo, un po' di blocchi, ecco, fatto il cosmo. Zampironi, fumogeni e queste luci verdastole, verdognole, Era tutto un lavoro sulla luce per creare, per trasformare in la bigiotteria di cui disponevano in oro luminescente. Questo il solito stile italiano, la solita fervida fantasia che si avvaleva di poco denaro. Che si alimentava però su un filone fantastico che era già percorso ampiamente negli Stati Uniti. Per noi era la nostra solita rilettura artigianale. Quanto fu vivo questo filone, e poi cominciamo a sentire qualche spunto, quelli che sono i luoghi letterari ai quali si ispiravano. Come avverrà poi per Sergio Leone, noi imitiamo gli americani, ma poi gli americani riprendono, reintegrano nel loro mercato la nostra inventiva, perché poi i vari Margheriti, Bava, Fulci verranno poi ripresi dal mercato americano, piaceranno molto di più le imitazioni che lo stesso cinema di fantascienza americano. Allora lanciamo come sempre la nostra domanda al pubblico, 800 24 0024. Io lo so, lo intuisco, ne ho avuto a volte sentore. Esistono profondi e strenui appassionati di fantascienza tra coloro che ci aspettano e che ci ascoltano. Tra tutti questi vorrei sapere quanti hanno avuto il loro imprinting, la loro iniziazione al mondo fantastico dell'irrealtà futura attraverso i filmacci italiani di quegli anni. Voi appassionati di fantascienza, allora eravate bambini, eravate già adulti, quanto ricordate di questo cosmo ricostruito artigianalmente a casa nostra? Comando supremo, qui Alfa 2-3, formazione di dischi avvistati. Ora basta, togliete il telecomando. Sei impazzito? Togli subito il telecomando, dobbiamo manovrare liberamente. Sarebbe un atto di insubordinazione. Due dischi vengono verso di noi. Giocati pure la carriera, idiota. Sempre molto meglio che giocarti la vita. Comando supremo, qui Alfa 3. Sette dischi distrutti, chiudo. Nostra seconda squadriglia distrutta. Dischi superstiti puntano su di noi, chiudo. Vorrei che i piloti dei dischi fossero come noi. Perché, Dick? Così potrei almeno sputargli in faccia. Qua c'è un mix di frasi epiche da film di Pelle Rossa Cowboys, film di guerra, film di John Wayne, eroe con il suo Winchester, legato però a uno spazio improbabile. Mi diceva Fabrizio Intonti che le navicelle spaziali di quei film somigliano a quei missilini che facevamo con i treccerini e la stagnola quando eravamo piccoli. Soprattutto poi c'è questo astronauta che ha questo casco da stuntman e ha un volto da Lamberto Maggiorani dal Ladre di biciclette, doppiato con voce tonante da Accademia Filodrammatica del dopoguerra. Quindi, di che film stiamo parlando innanzitutto? Il film è Il pianeta degli uomini spenti di Margheriti del 1961. È curioso questo film perché parla appunto di questo pianeta che è lo straniero che sta per invadere la Terra, però è un piano che gli alieni hanno fatto decenni prima e ormai si sono estinti, quindi continua in automatico questa invasione della Terra, perché i satelliti che loro hanno creato agiscono da soli automaticamente, non hanno più una forza che li guidi, e sono rimasti solo dei residui di questi alieni fatti di tubi lattiginosi verdastri costruiti genialmente da Margheriti, che si occuperà lui stesso poi degli effetti speciali. Quelli erano gli anni in cui in Italia si stava consolidando un filone legato ad alcune riviste, ad alcuni autori di ufologi, misteriosofici, il giornale dei misteri, Peter Colosimo che faceva queste associazioni singolari fra piramidi, astronavi spaziali e via dicendo. C'era tutto un filone nel preludio degli anni della contestazione, del rivendicare lo spirito laico, del cambiamento dei costumi, di quasi religiosità parallela, che era molto fertile terreno in cui potevano naturalmente crescere questi film di fantascienza. Io mi ricordo mio zio ferroviere che attendeva gli UFO, e quando ero piccolo nell'infanzia lo vedevo davanti a Star Trek. Lui officiava una sorta di rito ogni volta che accendeva la televisione davanti a Star Trek, sempre degli anni 60, subito dopo Bava. Lui era come se entrasse attraverso il tubo catodico in un'altra dimensione in cui io bambino entravo con lui. Diciamo che Star Trek aveva il fascino della diffusione globale, ma in realtà anche le tecnologie rappresentative del cosmo di Star Trek, delle astronavi, erano molto limitate. Erano cartapestacee anche loro, insomma, c'erano sempre poi questi rotoli di pinguedine di Kirk, perché poi queste tute attillate un po' fetish comunque mostravano fisici non propriamente impeccabili, non propriamente scolpiti. Sì, tutti immaginavano che il futuro, eravamo negli anni 60, quindi il 2000, gli uomini sarebbero andati in giro con delle tutine tipo i cinesi della rivoluzione culturale di Mao al tempo, cosa che non è mai accaduta. Certo, poi ho visto una Lisa Gastone, a proposito di questo, Lisa Gastone nei film di Margheriti compariva spesso, che durante un'intervista dichiara: ma queste non sono, queste non è previsione del futuro, questo è ormai il presente, noi giriamo delle avventure galattiche, tanto ormai ci siamo con le nostre astronavi, andremo ovunque. Io ho visto al telegiornale un astronauta russo, e invece oggi siamo ancora intabarrati nelle nostre vetture, nel traffico, non andiamo da nessuna parte. Diciamo che oggi la maniera più moderna di vestirsi e più avanzata e corrisponde esattamente a come si vestivano i genitori di quei ragazzi che sognavano il futuro, quindi con le stesse giacchette, con gli stessi pantaloncini, le stesse cravattine strette con cui si vestivano i geometri allora, oggi si vestono i nerd che progettano il futuro. Abbiamo forzato l'entrata, signore. Qui Steele chiama Benson. Parlate, giovanotto. Vi ascolto. Professore, siamo entrati nel disco. Abbiamo frugato dappertutto. Non c'è nessuno. Chi credevate di trovarci? Vostra nonna... Sansona, qua siamo sempre nel pianeta degli uomini spenti. Datevi una mossa però a telefonare all'800240024, perché mi interessa capire quali erano le fonti attraverso cui... ecco, è arrivata subito. Basilia. Sì, buongiorno. Finalmente, ho il supporto e il conforto di Basilia. Grazie. Com'è l'hanno chiamata Basilia? Perché i miei ex antenati erano greci e Basilio in Grecia è il nome più usato. Regina vuol dire, qualcosa del genere. Regina, re Ilio era il famoso re, no? Ah, che bello. E quindi viene da Ilio. Le ha dato problemi durante la fanciullezza a chiamarsi Basilia? Devo dire che l'infanzia sì, però è anche vero che nella mia famiglia io mi chiamo Basilia soltanto in circostanze dove non posso dire Ilia, perché io sono stata chiamata Ilia dalla nascita. Ah, Ilia. Pertanto Basilia è soltanto, ti ho detto, se devo fare una firma, altrimenti mi conosco tutti come Ilia, non Basilia. Anche Basil era bello. Ma sa, allora i genitori nostri erano un po' di altri tempi, mi pare del Novecento, per cui... Ma lei quanti anni ha, Basilia? 63. Ah beh, grandina. Allora, lei leggeva e sapeva di fantascienza. Allora, le spiego. Io da piccolina, siccome non c'erano le possibilità di comprare i giornaletti, però spesso trovavo così, cercavo dalle amichette dei giornaletti e mi prestavano l'Intrepido. Ah, grande Intrepido. Questo giornaletto molto carino che io amavo follemente. Dove c'erano i famosi occhiali a raggi X e naturalmente le scimmie spaziali. C'era di tutto. Però alla fine di questo, nelle ultime pagine, c'erano dei disegni particolari. Ad esempio c'era la cavalletta che con le grandi ali volava nei cieli e rincorreva dove qualcuno la cavalcava e volava insieme a lei. Così. Questo era un grillo gigante, non una cavalletta, devo dire. E questo e lei voleva cavalcare il grillettone gigante? No, è che io invece sognavo che questo animale, che tra l'altro io essendo una figlia di contadini, per cui vivendo in campagna non temevo gli insetti, assolutamente no, però li vedevo così grandi in questo rivista, in questo giornalino, che io sognavo che mi rincorrevano, per cui correvo quando mi sentivo sempre questo animale che mi stava per prendere, e questa era la ragione per la quale io molto spesso facevo la pipì a letto. Insomma, quando sognavo, per fortuna non c'è Beppe Neri, abbiamo avuto ospite ieri, perché avrebbe tratto delle conclusioni da questo suo grillimorfo puoi fare la pipì a letto, che mi sconvolge. Ma torniamo alla fantascienza, sennò rischiamo di scivolare in terreni pericolosi. La domanda era questa, no? Alla fine del nostro discorso mi domando, la fantascienza fatta in certi modi, adesso non si è più bambini, i bambini sono già adulti. Però mi domando quanto nella mente bimbi incide nella... Sta assumendo un eco spaziale, che succede, Basilia? Sta decollando, Basilia. Sta iniziando il teletrasporto? Pronto? Come? No, sentivo un eco spaziale nella sua voce. Ah no, sono in macchina. Adesso io è un effetto non voluto. Ecco, sono ferma. Sì, fermi. Ecco, mi ha sentito? Sì, la sento. Mi diceva, allora, rispetto diciamo alla sua generazione, oggi parlare di fantascienza, innanzitutto fantascienza è un termine ormai talmente antiquato che, vero Sansone, sì, parlare sì. di fantascienza sembra già ci si denota per la generazione a cui si appartiene. Sì. Però devo dire che oggi è tutt'altra cosa, allora si doveva lavorare molto di fantasia. Lei ha ancora un ricordo così pregnante della cavalletta spaziale che vedeva sull'Intrepido. Immagini quanto rimarrà invece poco nella sensibilità dei contemporanei di Avatar visto con gli occhialetti 3D, che è un grande spettacolo, ma non lascia così profonde tracce. Come mai, Sansone? È perché c'è un'ipertrofia della rappresentazione, c'è troppa rappresentazione nel mondo di oggi. Invece allora, nonostante tutta la goffaggine e nonostante i costumi ridicoli, c'era una sorta di sospensione dell'incredulità. Queste forme cinematografiche avevano una valenza mitica, lasciavano sognare, creavano un'evocatività anche musicale molto bella. C'era molto l'uso del theremin, questo strumento meraviglioso che suona interrompendo dei campi magnetici, un suono veramente spaziale, ne hanno fatto un uso smodato. Fra due antenne che appunto creano qualcosa che è in bilico fra il violino e la voce umana. Sì, sembra quasi una musica strappata all'etere, bellissimo. Un giorno vi parlerò del theremin. Un'inutile, stupida ecatombe. Precisamente, ma anche per i dischi ne cadono a grappolo. Questo non risolve un bel niente. C'è troppa differenza di proporzioni tra il numero dei dischi e il numero delle astronavi. Numeri. Voi sapete che cosa sono i numeri, Confield? Essi sono gli assoluti con i quali dobbiamo fare i conti. Tutto bene, professore, avete ragione, avete sempre ragione. Questo resta ancora da vedere, mia cara. Quasi sempre nel pianeta degli uomini spenti, Sansonna, ma sì, non si spengono mai poi alla fine. Vale la pena di spendere invece due parole sul professore, che è Claude Rains, il capitano Renault di Casablanca e anche Notorious. Insomma, un grandissimo attore che, settantenne malato, si presta a Margheriti e crea questo ruolo di... Cioè, riprendevano proprio negli ultimi sgoccioli della loro carriera. Questo è un uso... Costavano meno. Dei B-movie italiani. È stato un uso che poi è continuato negli anni, no? Arrivavano in Italia nella sorta di cimitero degli elefanti. Però Claude Rains dà vita a questo scienziato folle ma molto umano che rimane un personaggio incredibile di questo film di Margheriti. Ispirato un po' al professor Zarro di Flash Gordon, di cui Margheriti era un grande appassionato. Il razzo celeste del professor Zarro, quella era la fantascienza degli anni 40, che però devo dire era un filone, lo dice ultimamente in un pezzo, adesso non ricordo esattamente chi, non vorrei dire una bestialità, non so se è proprio Umberto Eco, che vedendo il film di Cameron dice che a lui ricorda appunto il razzo celeste del dottor Zarro, in cui c'erano gli uomini falco con lance, frecce e strumenti arcaici che vanno contro i laser spaziali del perfido Ming, quindi c'è una rilettura degli anni, c'è una anticipazione degli anni 40 di quello che oggi sembra il filone più avanzato della fantascienza. Però è come se avesse un sapore più autentico questo mondo più antico, legato anche a Flash Gordon e ai fumetti, rispetto all'oggi. Io l'ho visto appunto Avatar, c'è cioè questa iper tridimensionalità, questo eccesso di spettacolo comunque annichilisce l'evocatività, la sospensione, il sogno. Sentiamo Michele ha giustamente da tirarci le orecchie per una nostra inesattezza cronologica. Michele. Sì, pronto, buongiorno a tutti voi, ciao Nicoletti. Una piacere. Credo... No, hai ragione, è vero, sì. Io penso che Star Trek nasce negli anni 70. Potete consultare. No, nasce negli anni 60. No. Allora, Sanson è... Adesso faccio subito una ricerca. Nasce nel 66. Ah, strano, perché io, va bene, ho 60 anni, quindi non ricordo dagli anni 70. In Italia forse è arrivato negli anni 70. Ah, ecco, chiedo scusa. No, era solo per un... Sì, non vorrei dirottarvi, ecco. La seconda considerazione che volevo fare era più, diciamo, quella che mi interessava di più, è il fatto che la fantascienza, io l'ho vissuta attraverso i libri, non so se vi ricordate la collana dell'Urania, dove mi sono letto tutta la trilogia di Asimov, eccetera. Comunque Becker, tutte diciamo la serie. Dove nel 66 nasce. Sì, esatto. Nel 66, dice, ma probabilmente io, essendo in Italia, probabilmente a noi è arrivato nel 70 comunque. Ecco perché il mio rosco. Chiedo scusa per questa falsa informazione. No, ma Sansonna... vediamo quanto c'è di meglio sul mercato, è impossibile che sbagli. Immagino, no, chiedo scusa per questo. La considerazione che io penso che invece della vera fantascienza era quella scritta sui libri negli anni, vai dagli anni 60-70, perché lasciava l'immaginazione al lettore, il quale non è che aveva una visione, come si dice, televisiva del racconto, quindi per cui doveva lui immaginare con la sua mente. Sì, però non facciamo la solita nostalgia dei supporti dell'immaginario vecchi. Grazie a Dio si evolvono. No, ti spiego, Nicoletti, non è che ho nostalgia, anzi, al contrario, invece se si va a pigliare quella che oggi viene definita la fantascienza moderna, veramente supera addirittura l'immaginazione, quindi per cui è ancora più stimolante. Cioè, non sono io che devo immaginare, ma addirittura vedo quello che non avrei neanche pensato di immaginare. Quindi, anzi, gli faccio i complimenti, probabilmente andrò a vedere Avatar, perché secondo me ne varrà la pena, voglio dire, dal punto di vista... Sì, ne vale la pena perché è qualcosa che non si può fare a meno di vedere, visto che è un fenomeno. però dal punto di vista dell'emozione, passato l'impatto visivo immediato di questa tridimensionalità, la storia di una debolezza radicale, abissale, devo dire veramente, non dice nulla, assolutamente nulla. È una vecchia storia, ormai stradetto, fra la principessa Pelle Rosse Pocahontas, Gordon Flash e qualcosa del genere. E poi ci sono l'ultima mezz'ora di esplosioni pure, in cui anche si perde un po' quell'effetto. A me, io ho sentito nel 3D iniziale, in tutto l'apparato che c'era all'inizio di Avatar, la stessa emozione che dovevano provare i primi spettatori dei Lumiere quando hanno visto la locomotiva che usciva dallo schermo. Però poi dopo questo effetto si perde. Melog 2.0. Nordeg? No, non sono Nordeg. Nordeg è morto. Io sto semplicemente usando il suo corpo. È un abitante di questo pianeta che vi parla. Vi diamo ancora una possibilità. Noi abbiamo fatto in modo che parecchi di voi si uccidessero l'uno con l'altro, perché avevamo bisogno dei loro corpi. Ma non siamo dei mostri. Stiamo cercando di salvare la nostra razza. A spese nostre. Al nostro posto non fareste altrettanto? Non ha forse sempre agito in questo modo la vostra razza nel corso dei secoli? Noi dobbiamo combattere per sopravvivere, anche con i mezzi più disperati. E il nostro è un sole morente. E quando morirà, moriremo anche noi. Ma anche se acconsentissimo ad aiutarvi, come potremmo farlo? Una sola astronave non può certo trasportare nello spazio tutta la vostra razza. Basta che uno solo di noi raggiunga il vostro pianeta e gli altri potranno seguire la strada che lui aprirà. Non ci sottometteremo mai a dei parassiti. Questo è un tipico discorso alieno preso da Terrore nello spazio. Stiamo parlando questa mattina di quel fantastico filone nato in Italia dagli anni 60 fino forse ai primi anni 80 di fantascientifica filmografia italiana, fatta a volte con mezzi di fortuna ma con una grande conoscenza comunque di quelli che erano i filoni fondamentali che si stavano sviluppando oltreoceano, e con i mezzi che potevamo, con attori residuali presi dagli ospizi, comunque facevamo sognare la gente. Giuseppe Sanson ci aiuta in questo viaggio questa mattina. Questo era Terrore nello spazio di Mario Bava del 65, in cui un gruppo di astronauti finisce su un pianeta di alieni vampiri alla Alien. L'archetipo originario è sempre quello degli ultracorpi di Don Siegel degli anni 50. Qui c'è queste scenografie con questi verdi, questi arancioni incandescenti, queste forme coniche da pop art woroliana, ma anche con richiami a Ruttmann, a un mondo rielaborato con pochissimi mezzi, perché qui Bava racconta che non aveva nulla a disposizione, solo il teatro di posa vuoto e squallido per fare il film, non aveva una lira. Ha recuperato due grosse rocce di plastica residuato di qualche film peplum mitologico e le ha messe in mezzo al set, ha coperto lo squallore dei pavimenti con zampironi fumogeni, ha oscurato lo sfondo con la parete bianca e ha ricreato il cosmo. Questo ha creato un grande film di fantascienza. Maria Teresa, lei se lo ricorda il cosmo? Prego? Lei si ricorda il cosmo? Il cosmo? Sì, una collana. Mi racconti? Una collana oltre a Urania. Leggeva dei libri legati al cosmo. Prego? Sì, ma mi capisce. Ero ragazzina e avevo un fratello maggiore di qualche anno e che era appassionato di fantascienza, per cui comprava questi libri che vendevano in edicola. Per cui dopo leggevo anch'io. Ho cominciato ad appassionarmi al genere della fantascienza. No, io vedo con piacere, sono molte le donne si appassionavano a questo genere, è un genere molto seguito dalle ragazze di allora. Sì. E anche per quanto riguarda film, che però ricordo, perché adesso finora si è parlato di libri e film dove c'è questa invasione degli extraterrestri, però mi ricordo anche tutto quel filone, adesso passando ai film, di un film tipo Il pianeta proibito. Ah, Forbidden Planet, beh, è il capostipite della fantascienza. È il capostipite, sì, e lì non parliamo di invasione, ma lì addirittura entriamo in un mondo della psicologia, della i mostri del Lied. Questo, non so se lo ricorda lei. Cioè, Sansonna compila sapientemente, come sai fare, ciò che manca a quello che stiamo dicendo. Sì, c'erano echi shakespeariani. Mi ricordo anche c'era Leslie Nielsen giovanissimo, prima di fare la pallottola spuntata, nel film di Wilcox. Sì, che faceva parte dell'equipaggio. Certo. No, americano che arriva in questo pianeta e lì trova questo professore con la figlia e si materializzano questi mostri fantastici, che poi altro non erano che i mostri che venivano prodotti dalla mente del padre di questo professore, e che tentavano di distruggere, perché lui in fondo a livello inconscio voleva difendere la figlia e difendere il pianeta, insomma, per motivo egoistico. Sì, ma c'erano sempre queste commistioni. Sì, dopo lui scendeva, sì, che probabilmente sarà stato un super computer lasciato dalla popolazione di quel pianeta, e sarà stato un super computer dove lui andava a potenziare le sue capacità intellettive, insomma. Diciamo che coincidevano vari filoni. Quello innanzitutto della tecnologia emergente, quindi i robot, poi la cibernetica, i computer che ancora erano dei grandi pannelli di lampadine colorate, perché ancora l'idea del LED non esisteva, sarebbe venuta dopo un po'. E poi anche una certa psicanalisi che usciva fuori, stava cominciando a prendere le derive lisergiche, da lì a poco la gente comincerà a vederli davvero gli alieni, facendosi grandi striscettine di LSD. Certo, e poi c'era appunto anche questa sorta di filosofia popolare che poteva passare attraverso i film di fantascienza, anche con previsioni sul disgelo dei ghiacci, sulle catastrofi che sarebbero venute a causa di una condotta terribile che effettivamente è avvenuta da parte dell'umanità. Ma andiamo avanti con un'importante testimonianza. Che aspetto ha il pianeta a cui ci avviciniamo? Ghiaccio e neve. Uno spoglio e bianco deserto. Sondatelo con le onde computerizzate. La base nemica potrebbe essere nascosta sotto la superficie. Lo abbiamo già fatto senza alcun risultato. Abbiamo anche cercato. Comandante, di... allarme! Che succede? Siamo stati intercettati da una forza sconosciuta, un campo magnetico. Luigi Cozzi, buongiorno. Salve a tutti. Cosa abbiamo sentito? Sono l'inizio del mio film di fantascienza del 79, Scontri stellari oltre la terza dimensione. Ecco, tu sei un regista di quelli che in quel periodo confezionarono il cosmo. Oggi ti diletti a vendere arti umani e pezzi di coratella nel negozio di Dario Argento a Roma. Ma anche astronavi, Anche astronavi, certo, sì. Il tuo è un piccolo ricettacolo di tutta la fantasia dei nostri anni più felici e di tutta quella che forse ancora ci sarà dato di vedere. Beh, dimmi, raccontami un po' come funzionava allora, come realmente, innanzitutto lo spunto, chi vi ispirava, come vi venne in mente a un certo punto, a voi generazione di giovani registi del fantastico, di cominciare a trattare il cosmo nel nostro paese che di cosmologico c'aveva veramente poco. Ma guarda, tu hai, prima hanno parlato i due amici, hanno parlato di Mario Bava, di Terrore nello spazio, e ha parlato dei romanzi del cosmo, diciamo, no? E io ero, la testimonianza di Bava che ha citato l'amico, l'ho racconta io, sono stato io a fare di quell'intervista in cui Bava raccontava del teatro senza soldi, con solo le due rocce che si spostavano, nel 63-64 mi ricordo che lo incontrai a Roma. E i romanzi del cosmo è una collana dove io da ragazzo a 16-17 anni pubblicavo i miei racconti, perché già allora, all'inizio degli anni 60, c'era questo grande sogno della fantascienza, dello spazio. Eravamo pochissimi, però, diciamo, presi un po' per matti. Ecco, le vostre fonti quali erano? Perché oggi uno viene nel tuo negozio Profondo Rosso e vede trasformate in oggetti, libri, tutta la rassegna degli oggetti più fantastici che ci hanno ispirato, tutti gli alieni, il mostro della laguna, tutto c'è veramente, è concretizzato. Ma voi allora non c'avete nulla, nessun supporto, dove andavate a cercarli? Niente, quasi niente, diciamo che c'era Urania di Giorgio Monicelli da Mondadori, che aveva creato questa collana, che ha aperto in Italia nel 1952 il vaso di Pandora dei sogni, diciamo, dei sogni tecnologici. Ma c'è qualche invenzione tipicamente italiana in questo genere, dei sottogeneri che poi ci hanno imitato gli stranieri? Ma gli italiani hanno cominciato a fare fantascienza quasi subito, ovviamente a fatica, però hanno cominciato, c'erano già i primi romanzi italiani intorno al 55-56 che non erano affatto male, e per esempio hanno inventato il genere della fantascienza archeologia misteriosa, cioè fantascienza imperniata sui Maya, sulle antiche civiltà che erano molto progredite. Ma vedi che Peter Colosimo già cominciava a colpire? Sì, era il periodo in cui c'era già l'inizio Peter Colosimo. Peter Colosimo, ricorda, era un signore in Italia, ebbe un grande successo, una grande fortuna di libri che si vendevano nelle stazioni, Non è terrestre fu il primo, che aveva una serie di ipotesi per cui la nostra civiltà sulla Terra altro non era che il frutto di un'inseminazione aliena, per cui queste tracce si trovavano, non so, nei Moai dell'isola di Pasqua, nelle piramidi e nei graffiti, ovunque c'erano extraterrestri che pulsavano. È questo, no, Luigi? Sì, esatto, è esattamente questo. E c'è da dire che, per esempio, i libri, anche il racconto dal quale Mario Bava ha tratto Terrore nello spazio, in realtà gli articoli di Colosimo e il racconto di Bava è uscito diversi anni prima, mi pare intorno 57-58, c'è una rivista periodica che usciva in edicola che li pubblicava, e quindi è tutto un movimento che è nato molto prima e poi è arrivato in libreria, poi è arrivato al cinema, ma è nato verso la seconda metà degli anni 50. La rivista si chiamava Oltre il Cielo e pubblicava cronache di astronautica, il primo Sputnik, il nuovo missile russo, il nuovo missile americano e racconti di fantascienza. Era il periodo in cui i fratelli Judica Cordiglia intercettavano da Torino queste voci degli astronauti russi che morivano in esperimenti andati a male. Fu un momento in cui la guerra fredda passava attraverso l'immaginario spaziale. Melog 2.0. Ma cosa sta succedendo sulla Terra? Una catastrofe dopo l'altra. Le calotte polari si stanno rapidamente sciogliendo. Tutti i mezzi terrestri si sono dimostrati insufficienti. Non abbiamo difesa. Il disgelo provoca continue inondazioni su metà delle zone popolate della Terra. Nessuno riesce a capire da dove provenga questa energia capace di sciogliere milioni di tonnellate di ghiaccio preistorico. E qui dovremmo intervenire noi. Già, è una parola. Cosa sta succedendo nel pianeta Aitin, Sansone? Questa è l'avanguardia del pianeta Aitin che arriva sulla Terra e crea questo disgelo. Mettiti questo a fuoco del microfono. Questo sì, hai ragione. È l'avanguardia del pianeta Aitin che arriva sulla Terra e crea questi scompensi, questi disgeli. La cosa straordinaria è che gli Yeti nel film sono semplicemente degli uomini ricchi di adipe, obesi, dipinti di grigio. C'è uno di loro che fa una discesa da una scala a chiocciola di metallo come Vanda Osiris, Cenzo Fiermonte, c'è tutto, c'è Ombretta Colli, c'è un po' tutto un campionario di figure. Sì, c'è questa sorta di contrapposizione antropologica, diciamo molto populista, molto legata anche a ideologie del tempo, in cui questi rozzi, ieti, pelosi, barbuti vengono considerati dei bruti, dicono a un certo punto gli invasori terrestri, ma questa gente non può aver costruito questo tipo di cose. Poi invece si vedono che arrivano gli ieti, che sono semplicemente dei signori con la barba, degli orzacchiotti giganteschi verniciati di bianco. Rod, Frank, che vi hanno fatto? Lisa, devi tenere i nervi a posto. Solo un enorme bernoccolo dove mi ha colpito uno di questi cosi. E tu, Charu? Sto bene, solo molto meravigliato. Credevo questi mostri esistino solo in nostre leggende. Per fortuna hanno lasciato termoabiti. Fa molta fredda terribile qui dentro. Guardate, incredibile. Che macchinaria grande. Ma chi può aver costruito queste macchine? Certamente non questi esseri mostruosi. Le loro menti devono essere simili a quelle dell'uomo preistorico. Anch'io non credo che questi bruti capiscano granché di queste macchine. Davvero? Come potete essere così sicuri? E tuttavia così in errore. Voi mi credete ancora l'abominevole uomo delle nevi? Io e la mia gente non... Mentre dice questa frase austera e solenne il capo degli Yeti, che è un signore con la barba semplicissimo, scende da una scalettina a chiocciola squallidissima tirandosi sul mantello, quindi la tecnologia non permetteva naturalmente di fare di più o i mezzi a disposizione. È bello, sentite l'astronauta russa che parla come una badante ucraina per far vedere che comunque c'era questa sorta di fratellanza tra russi e americani. La guerra fredda vanisce appunto nell'imprecisione, nell'inattendibile, insomma, di questi doppiaggi, di queste voci stentore, accademiche, no? E gli Yeti vengono trovati dentro una montagna che è sulla Terra. La Terra poi è l'Eur, perché è tutto girato all'Eur. La Terra è, quindi dall'Eur si passa alla montagna in cui questi Yeti, capeggiati da Franco Nero, ai suoi esordi. Sì, perché erano le architetture più legate al futuro, in realtà erano ancora quelle del ventennio, era il futuro immaginato dal ventennio, che negli anni 60 era la cifra più avanzata rispetto all'orrore dell'architettura popolare, dei grandi casermoni che costruivano le periferie di Roma. Quindi se ancora c'era un brandello di futuro, è ancora quello immaginato una ventina d'anni prima. Certo, l'Eur sarà anche poi il teatro dell'ultimo uomo sulla terra, quel film dove Vincent Price rimane solo a combattere contro dei vampiri e zombie in una sorta di futuro in cui appunto effettivamente come palcoscenico metafisico l'Eur si presta benissimo. Federico, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. No, io volevo fare una riflessione e condividerla con voi. La mia sensazione è che il progresso tecnologico effettivo che viviamo in questi anni abbia avuto un effetto drammatico sulla creatività dei sceneggiatori o degli scrittori di fantascienza, tant'è che nelle produzioni attuali di fantascienza si attinge sempre, i prodotti più degni attingono sempre a idee che risalgono a 20-30 anni fa. Penso a Battlestar Galactica, che è questa serie incredibile che ha avuto un successo pazzesco, ma che in realtà deriva la sua idea originale da un'altra serie degli anni 70. Penso adesso al cinema, a Star Trek Le Origini, che tutto sommato è andata a rispolverare le origini di una serie che appunto ha fatto storia. Penso anche, che so, se vogliamo farcelo rientrare, agli X-Men di Stan Lee, che comunque è un concept che deriva dagli anni 60. Insomma, la mia sensazione è che, al di là di rarissime eccezioni, la produzione attuale di fantascienza sia un po' in crisi, c'è cioè una carenza creativa generalizzata, cioè non riescono più a tirare fuori idee originali. Cioè, Luigi penso... Cozzi, cosa ne pensi? Regista degli albori della fantascienza italiana, su questa vena ricorrente che non trova mai spunti nuovi. Purtroppo è vero, cioè la fantascienza è entrata molto in crisi negli ultimi anni, probabilmente una crisi di evoluzione, di crescita, però è in crisi sia in letteratura che nel cinema. La grande fioritura, il grande ottimismo che c'era fino a un certo anno per le conquiste dello spazio eccetera, si è fermata, anche perché si sono fermate anche le conquiste dello spazio, la ricerca dell'uomo in avanti, è andata avanti la tecnologia della comunicazione, si è sviluppata in una maniera pazzesca, ma altre tecnologie si sono quasi fermate. Diciamo poi nella fantascienza Coté, cyberpunk, anche lì sembra stato dato tutto. Una volta che Philip Dick è diventato una serie di film, dopo Matrix, è un po' difficile immaginare altre storie nel rapporto uomo-macchina. Che ne dici, Sanson? Come si dice, il futuro non è più quello di una volta, ma sicuramente forse anche le cose previste da tutti i romanzi futuristici di fantascienza si sono avvenute solo forse il lato più oscuro, quello più tenebroso, invece quello che doveva essere una facilitazione della vita non sembra essersi avverato, ecco questo forse. Manuel su Facebook mi dice: l'astronave dei miei incubi era proprio quella di Star Trek, bellissimo telefilm dove la scoperta dei nuovi mondi mi faceva fantasticare viaggi incredibili come i miei nonni potevano fare con i romanzi di avventure per rimare alla scoperta di terre inesplorate. C'è un libro, mi ricordo, di Gianfranco De Tour che parla delle astronavi dei Savoia, parla di una letteratura italiana ottocentesca in cui già anche lì si immaginavano conquiste dello spazio. Antonio, buongiorno. Pronto? Sì. Sono io? Sì, certo. Sì, buongiorno. Senta, volevo estendere un po' anch'io una riflessione. Sono ancora adesso, anche se ho 50 anni, un grande amante di fantascienza. Abbiamo avuto anche se ho appena 50 anni. Anche se ho appena 50 anni, grazie. E grandi scienziati come Asimov, Leo Szilard, che hanno anche pensato la mente dei delfini, mi ricordo un romanzo di Szilard, che intervengono per salvare l'umanità dalla catastrofe atomica, eccetera, eccetera. Astronavi, eccetera. Il mio concetto è: il futuro, il nostro futuro, non è altro che un'estensione, scusatemi, del nostro presente. Voglio dire, nessuno ha immaginato Internet. Cioè abbiamo immaginato nei romanzi, nei film di fantascienza, una comunicazione interplanetaria, ma sempre Twitch, cioè io con te. Nessuno è riuscito a immaginare un'estensione di comunicazione per cui tutto l'universo, tutto il pianeta è comunicato come adesso lei è con Facebook e con i suoi ascoltatori in rete. Sì, dice una cosa giusta. La cifra più presente di assoluta novità della nostra contemporaneità, faccio sentire nel futuro, non era stata mai allucinata. Tutti immaginavano catastrofi, alieni, trasformazioni, mutazioni, distruzioni, trasmigrazioni, transumanze, ma nessuno ha pensato alla rete, è vero? Giusto. Sansonda, cosa ne dici? Sono d'accordo, infatti Facebook forse è l'invenzione più sconcertante, che è allo stesso tempo più immediata che viviamo in questo momento. Sì, ma proprio per questo, infatti, quando non vorrei girare il coltello nella piaga, ma quando Cameron, come unica novità, trova il pianeta degli uomini ecologici che comunicano tra di loro attraverso una sorta di rete neuronale legata tra alberi, piante, uccelli volanti e via dicendo, in fondo non fa altro che raccontare quello che stiamo facendo. Che volemo fa? Che volemi fa? Aspetta un momento. Parasò, Judy. Che vuol dire parasò? Vuol dire ti voglio bene. Vuoi fare l'amore con me? Ma tu lo sai fare l'amore? No. Allora te lo insegno io. Per prima cosa bisognerebbe spegnere la luce. E adesso vediamo cosa possiamo fare. Pix? Sì? Ma è verde anche lui? Non lo so, non l'ho mai guardati. Pix! Ti piace fare l'amore? Fare l'amore non lo so, ma certo che Scovari è bellissimo! Sansonda, questa chiusura licenziosa ce la siamo potuta permettere perché bisogna fare un'indagine profonda e non lasciare nulla di inespresso. Nulla, di cosa stiamo parlando? Nulla resterà impunito. Ciao Marziano del 1980 di Pingitore. Anche l'ultimo affronto è quello di vedere Pippo Franco dipinto di verde che fa il marziano, che quindi in questo impegnato in questo atto sessuale in cui il suo pene è verde come il suo, sì, volto. Sì, la baccellica appendice naturalmente fa parte del suo essere alieno. Il pene e il volto accomunati dal verde e non solo. Diciamo questa però è l'ultimo sussulto, l'ultimo guizzo, è la totale abissale mancanza di ogni creatività e è la morte della fantascienza italiana. Purtroppo. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie al professor Alessandro Chiappini che ci ha dato questo inestimabile materiale e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.